Comincia così la fottuta serata. Io giù più la tu, 5 6 su per giù. Riuniamo la gang di portarvi il nostro slang. Bada pacca pacca in pizza e capite, eccoci qui. Siamo presenti a tavolone con il nostro bottiglione targato Barberone, in un posto in cui si avvera la profezia barriera. Chi non beve il vino nero che si fa chiamar Barbera. Comincia la serata all'insegna di chi splera. Si può salvare soltanto chi ha coraggio altrettanto. Di bere il nostro cocco e tieni raggi d'ossa tanto. Nelle vene si dirige e l'effetto si propaga sulla gente. E incomincia a fare passi di bette. Nella nostra fottuta serata, troppo fottuta serata, fottuta serata. Io I still have a life. Poco dopo già sai, già sai. Sale più che mai e la jam si allontana. Dalla fottuta casa ci spostiamo nella TAR. La frequenza 107 che ci sono gli OTR. A manetto pompa palla alba a venerdì rap. Attenzione c'è tormento, ehi hey! Guarda già lo sento. Parte in freestyle e la pila poi ci ispira a giammare con il micro. Polo incomincia per la crew, soffretto lo tabù. 1, 2, 3, mother fuck qui chi c'è? Questo incaglia il tranchiso sulla rima fino spriso. E lo salva il DJ Sanna che viaggia per il mondo come Cristoforo Colombo. Alla fine Joe arriva, resta molto più di prima. Poi ci parte l'impennata della nostra fottuta serata. Tra fottuta serata, fottuta serata, la fottuta serata, fottuta serata. Yo. Zero, capitolo secondo, lo stereo a palla e conquistiamo il mondo. Dago la lira al fottuto censore, ma lo sguardo è truccia al fottuto controllore. Lucio si chiama, ma per me non è il suo nome. Per la crew lui rimane clima di tensione. Lanciati, piegati, fulminati, entriamo nella casa con filotti allucinati. Lo stile si esalta col suono che incalza, piegando il ginocchio stai fottuta. Mica l'occhio alla I che si posta nella pista, si getta nella mischia. Cabilloso number one, Big Maglione è un suo fan, si saluta. Salutano le fratipe, salutano i b-boy, ma il pubblico zero lo caghiamo solo noi. Nella nostra fottuta serata, la fottuta serata, fottuta serata, fottuta serata, fottuta serata. Terminata la fase, torniamo alla fase. Pentalone la media, votiamo in Marsiglia. Votiamo il possibile, votiamo Celentano. Ma non facciamo il bocca sparo un millino. Noi ci scambiamo la fila, milione o milino. Lui ci scambia lo scontrino, la focaccia e le poro. La formaggia fa poro, ma attenzione, ci arriva alle 4 di notte. Scampate le porte, un collasso da cose. È tempo di omaggio del capitolo finale all'hip hop in generale. E faccia il monitero dal pubblico zero. Facciamo il monitero dal pubblico zero. Faccio il monitero dal pubblico zero.